Wolf Trips, i viaggi del lupo. Oggi 23 marzo, una nuova puntata di Wolf Trips. Con me Domenico Biancardi e dall'altra parte per ora solo Cristina Rigato. Sì, siamo rimasti io e te stasera. Vabbè, va bene, va no, bene. No, però abbiamo una compagnia, la mia tosse, la mia voce un basta, po' giù. Basta. Stavo guardando che oggi non era successo nulla di che, tranne, vabbè, dobbiamo fare gli auguri a Chicco, l'unica persona importante che è nata oggi. Infatti, il nostro amato Chicco. No, perché infatti, praticamente dopo, non è dopo non è gli successo. Vedo, gli chiedo se si collega in diretta, glieli facciamo direttamente anche a lui. Sì. Va bene. Oggi abbiamo una puntata abbastanza ricca di musica. Quindi direi che dovremmo parlare poi di un genere particolare. Sai che ogni settimana ascolteremo un genere un po' particolare. Stasera ascolteremo musica krautrock. Krautrock? Sì, ti fa venire un po' di fame, ma in realtà non c'entra molto. No, non mi piacciono molto i kraut. È comunque un genere tedesco, anche un po' dal nome. Vabbè, giustamente, è quello. Però non è che ci potevamo aspettare altro, insomma. Giusto. Però iniziamo a ascoltare un po' di musica, diciamo, nuova del panorama underground. Partiamo sempre easy. Intanto I nostri ritardatari, i nostri ritardatari sono arrivati. Andiamo a ascoltare quindi questo brano nuovo di Lord con Supercut. Ciao Tony, ciao Debora. Tony intanto si sta, non so cosa stia facendo. Ah, si sta sistemando. Dai, allora, muoviti, sì, su, però, veloce. Basta. Ok, ci siamo. E ciao anche Fabio, che qua che scalpita, vedi. Perché non ascolta, ci metti sul fianco? Volevo dire una cosa, ma guarda che ogni volta che dici ciao, ciao, cioè sembra che siamo al gruppo degli alcolisti anonimi. No, perché se eravamo nel gruppo alcolisti anonimi, io dicevo qualcosa anonici e tutti dicevano ciao, cioè dovevano rispondere tutti in coro. Ciao Nello! Ecco, vedi, salutiamo anche Nello che è arrivato a trovarci come ogni venerdì. Ok, direi che ci siamo tutti, dai. Siamo al completo. Siamo al completo, sì, infatti. Ciao Igor, c'è anche la nostra mascotte. La che io adesso vado a salutare. Va bene, allora intanto che tu vuoi salutare Igor che... Tony, fai il bravo. Andiamo a ascoltare un altro po' di musica, così intanto ci sistemiamo per bene, va, che sì, vi vedo. Stasera è molto fiera. Vabbè. Molto bello. Andiamo a ascoltare intanto il brano di Louis Vuitton con Rewind. Jack, please. I see a lot of hate. I hear a lot of faking. Yeah. But I ain't got no shame. So they ain't gonna say shit. See, we're all the same. Just don't know how to say it. We can have it our way. We can make it amazing. Yeah. Don't let them under your skin. Don't need to take it all in. Yeah, just erase it. Get back to basics. No, we've got nothing to stress. You know it's all green ahead. So play it, play it again. So play it again. Rewind, take it from the first line. We could ride it all night. Staying past the sun. Play it while we're young. With a song in our head always on. Yeah, this is real life. Play it while we're young. Play it while we're young. Jump, take it from the lost one. Close eyes, nose dive, take me to the water. Treat a couple people, think I'm eating off a concert. Some pieces still devour more than towers off a concert. When broken, I ain't changing them still. Fix the labels till we breaking them deals. They gotta fix it, now I'm buzzing in my country. Every time in my 20s, I've been housing. Ever since I see my name on them bills, they tell you, whoo, child, I'm amazing. Look how I turned them hurricanes into a rain dance. Now them refugees is jealous, a bunch of gossip because of me. But you go ahead and tell me where my plane land. I mean, of course it's me, many endorsing me. I penciled in them gentlemen who open doors for me. So Mr. Mikey press record and seen them chords for me. Like, ooh, ooh, ooh, ooh. Rewind, take it from the first line. We could ride it all night. Staying past the sun. Play it while we're young. With a song in our head always on. Yeah, this is real life. Play it while we're young. Ma c'è una sigaretta. Sembrava di essere al parco quello di Lambrate. Quanto già in compagnia. No, comunque no, io non fumo. Sono fumo frio. Infatti non l'ha chiesto a te. No, l'ha chiesto a me. Lui fa il giro. Ma anche fuori. Andrà anche in piazza qua stamanate. No, vabbè, cioè, ma non l'ha mai visto che non fuma? No, io proprio, cioè almeno quando non mi girano le scatole, però per il resto non fumo solitamente. No, ma neanche quando ti girano le scatole. No, mi fuma, magari, cioè, mi fuma il cervello. Non... Sì, infatti, prima ho visto. No, perché? Sono tranquillo oggi. Oggi io sono così tranquillo. Oggi siamo rilassati. Sì, pure un quarto d'ora fa eri rilassato. Ero rilassato. Cioè, in bocca la caramella per non farmi venire la tosse. Non rompere le scatole. Benissimo, stasera, meno male che è la primavera. E cambia la stagione, ma non cambiano gli umori. Beh, non cambiano anche le abitudini. Direi che non cambiano neanche le abitudini. Giusto, è vero. Intanto qua abbiamo Fabio che scalpita. Tu... No, non scalpita. Non so, era qua che scalpitava. No, ma è sempre così. Cioè, ah, ok, è sempre super agitato. È iperisterico. Intanto ricordiamo i nostri contatti. Bravo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori che per mettersi in contatto con noi possono scriverci direttamente al numero 338-222-8983. Ci possono anche mandare messaggi WhatsApp o vocali WhatsApp. Noi li leggeremo tutti. No, no, vai, vai, vai. No, no, nulla. Ridi? No, rido perché vedi, stavo... Vedi, vedi cosa vuol dire quando uno ti ride in faccia? Lo vedi? Lo no, vedi? No, ma che stavo cercando i contatti, diciamo... No, perché questo è... Allora, devi fare con allora la mano. Tu non hai ancora capito che lui quando... No, no, vai, vai, vai. Mi silenzia pure il microfono. No, no, cioè, no, ragazzi, no, è partito un attimo cioè, la... stiamo la... andando veramente no, no, è partito... nei bassi fondi. Comunque, quando lui ti ripete una cosa, vuol dire che qualcosa la sta tramando. la stavo tramando, ma non sono riuscito a farla per tempo, ecco. Niente. Perché gli uomini non sanno fare due cose... No, non riesco, no, è vero. Sì, infatti, non è che hanno molte potenzialità. Comunque, possono anche chiamare in diretta al numero 0331-223000 oppure basta. Seguiteci. Vabbè, sì, se sulla pagina Facebook di Wolf Trips sì, ce l'ho aperta nel caso. Il caso, ok. Non so, non è che la guardo spesso, non è che sono poi tanto social, però vabbè. Sì, ricordati dopo di chiuderla però. Bravissimo, bravissimo. Perché bravissimo. Ogni tanto si vedono mail... No, è messaggi, perché i soliti messaggi che si vedono quando uno lascia aperto il profilo Facebook. Vuole dire qualcosa? Che poi sono sempre i soliti. No, quello riguarda prima il multitasking, è vero? Le donne sono molto più portate per il multitasking. Infatti noi siamo una marcia indietro perché andiamo in monotask. Giusto. Perché mettete la retro. No, per me perché c'è un buco in più. Guarda, perché guarda, io potrei sfoderare le mie conoscenze di sistemi informatici e il monotask era uno dei primi sistemi informatici sviluppati all'inizio che si chiama Minix. Infatti, vabbè, dopo questa... infatti, infatti, visto che erano i primi, cioè, possiamo anche andare. L'uomo è nato prima della donna, è stato creato prima ed è prima la brutta copia, poi la bella, giusto? Beh, adesso no, sì. Occhio con le battute che... Cosa c'è? Ti senti colpito? No. Direi che dopo questa serie di battute lasciamo spazio un po' di musica. È meglio. Che è meglio. Cosa ascoltiamo? Nulla Charles con Do It Right. You got me going, got me glowing, hoping you're devoted. This feeling you've been scheming, stealing, am I dreaming? Ooh, ooh. Another day, another dollar, and you only wanna holler when I'm gone. Oh, oh, yeah, you only wanna holler when I'm gone. Shoot the thrill, shoot the thrill. Right. Questo brano non ti ricordava quell'altro che poi ascolteremo oggi, perché è un altro brano che abbiamo messo spesso in Portugal The Man. Sì, è molto cocktail. Poi lo ascolteremo perché c'è una notizia che lo riguarda, visto che Portugal The Man. Sì. È un gruppo, non è uno solo. Sì. Tra l'altro la voce è anche da femmina, però. Infatti all'inizio credo che fosse una cantante. Comunque stavamo parlando fuori onda dell'evento di ieri. Che ha scatenato il panico in tutta la Lombardia e alcune zone del Piemonte. Sì, infatti, praticamente ci sono stati due cacciabombardieri che hanno superato il muro del suono, quindi si è sentito sto rumoraccio. Ramboato. Sì, due boati tra l'altro, esatto, in giro. Io l'ho sentito a Milano, devo dirti la verità. Qualcuno mi ha fatto la battuta che c'erano già pronti i bergamaschi a riparare il muro. Sì, no, perché ma poi io mi chiedevo infatti chi è che paga poi alla fine, cioè se si rompono sempre secondo le robe. Secondo me i cinesi erano già prima davanti a loro di riparare il muro. Visto che loro costruiscono le stazioni un giorno, quelle cose lì. Poi dopo cadono e si vede. Sì. Non parliamo di questo argomento perché c'è qualcuno qua che perché? Potrebbe essere interessato direttamente lavorando in ferrovia. A far cosa? A far cosa? Io non riparo i muri, Va che i treni viaggiano sulle rotaie, non sui muri, Infatti, non capisco queste allusioni. Ma ce la fate? No, non capiamo. I cinesi che costruiscono una ferrovia in un giorno, voi ci mettete 50 anni. E quindi? È caso che crollano anche subito. Certo. Io non ho mai provata la ferrovia. E non Cina. La provare! Provala. Vai pure. Andiamo. Non c'è problema. Soprattutto vi consiglio quelle indiane, guarda. Proprio un viaggio. Comodo. Aspetta, battuta. Vai. Allora, le ferrovie italiane quando passa il treno fanno. Aspetta, che devo mettere in bianco perché. Vai. Quelle cinesi fanno. Benvenuti a casa di Matt. Continuiamo con un po' di musica, va? Sì, è meglio. I've been moving kind of slow, no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. and cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Guess I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. Ain't gon' tell the story, shit was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, I feel good when I'm alone, leave me in the studio, daily self-discovery, holiday recovery, they love them instead of me. And still, bad things, there's a lot of bad things. They wish, and they wish, and they wish, and they wish, and they wish. Say, do you love me? I tell her only partly. I only love my cat and my snowboard. I'm sorry. 93, I even got it tatted on me. 2012, lady, y'all know feeling sorry. And you know me. Without teeter, probably would be no me, dog. Holler back at me in 2023. Lying bitches up from the nosebleeds, yeah. God's plan. God's plan. I can't do this on my own. To me and Team Thoreau, yeah. Holding down Colorado, staying true to 303, yeah. I hope one day Drake see me, yeah. Summer dropping my EP, and still. Bad things, there's a lot of bad things. They wish, and they wish, and they wish, and they wish, and they wish. Pop that. Intanto il comico del gruppo ci ha abbandonato. L'abbiamo mandato fuori direttamente. Gli ho donato una sigaretta, così così sta un po' zitto. Basta, dai, un po' di corruzione. Infatti. No, no, adesso torna. No, no, è tornato quello lì. Sembra di sentire Gollum alle spalle. No, ma anche a vederlo, cioè. Già, no, fatto. No, non è vero. No, già fatto, senza... Fabio. Il mio tesoro. Ecco, vedi. Hai già finito la sigaretta? Sì, sono molto veloce io a fumare. Anche la prossima volta devo comprare le Centos. Un pacchetto solo per lui. No, le Centos. Faccio fuori anche le Centos, non ti preoccupare. Mamma mia. Oh, è così, eh. Poi tempi da villaggio, cioè quando fumavo dovevo fumare in 2 secondi e mezzo, perché sennò poi mi cattavano. Ero lì proprio. Infatti ero sempre ultra schizzato per proprio. Sì, beh, non è che Non si direbbe. Proprio... Mi sa che le conseguenze ci sono. Ma me lo dicono in tanti che devo cambiare spacciatore. Sì. Ma sta storia qua del cambiare lo spacciatore sembra di averla già letta in questi giorni su Facebook, no? Boh, no. Deve essere un tuo argomento ricorrente. No? Probabile. Sì. Va bene. Allora, presentiamo uno dei brani della mezzatonica. Mi raccomando, parlo con te. No, ma così non la guardo e non sorrido, dai, diciamo. Ma rido da solo a pensarci. Allora, il primo pezzo che ho scelto è un Eric Pride. Pride, sì. E dipende dal nome del progetto che lui usa. Sì, è vero, usa. E lui ha fatto questo disco che è un piano. Chiamiamolo piano, dai. Sì, più, no, sarebbe Piangio, però Piangio sembra male. È in svedese, vuol dire pianoforte, piano. È un 2012, non mi ricordavo di quando no, era. No, molto prima. Come molto prima? 2008. Beh, infatti mi sembrava che era un po' troppo... No, più vecchio. Hai ragione, 2008, hai ragione. Eh sì. Successo mondiale. E... Sì, a me è piaciuto un casino. Cioè, la versione originale penso di averla ascoltata un milione di volte. Poi l'ho accennato perché lui adesso arriverà in Italia prossimamente a Torino, al Future Festival. E poi... Eh sì. E diciamo che poi lui faceva parte di un gruppo che poi ne parleremo, forse ritornano insieme. Ah, io spero di no. Io spero di no. Non perché ho capito che dici i Swedish House Mafia. Io spero di no, ma non per qualcosa, ma perché poi dopo la minestra riscaldata non funziona benissimo. E bisogna vedere, dai. Bene, andiamo ad ascoltare allora Eric Bride con piano, però è Afterlife Remix. Sì, quindi è un pezzo molto tranquillo. Ah, molto tranquillo. Quindi sì, è una versione rallentata, mettiamola così. Sì, già l'originale non è più cattivo. Che altro nei suoni. Sì, molto. The Cocktail, dai. Tra l'altro, Eric Prince è quello che ha anche fatto Call on Me. Sì, giusto, bellissimo. Bellissimo pezzo. Bello. Veramente fantastico. Andiamo ad ascoltarcelo. dire. Sì, sì, sì, sì. Vabbè, ma lui nei brani quelli di mezza tonica sceglie sempre dei brani o remix o originali che, come dice lui, sono spiaggia... ti bevi. E infatti, stavo notando, sembra tipo di stare Ibiza. Sai, spiaggia di Ibiza con il tramonto. Allora ho colto nel segno, perché lui non sapeva di questa cosa. Hai visto, hai visto. Sì. No, me lo sono veramente, me lo sono immaginato molto così, tipo sdraiato col cocktail in mano, tramonto spettacolare, sentendo questa musica fantastica qua. Volevi, tu volevi accennare qualcosa? Ti vedevo. No, no, io chiedevo solamente se era finita la mezza tonica. Sì, mezza sì. Mezza sì. Ah, ok, allora possiamo continuare. Svegliare. La realtà arriva dopo. E l'altra mezza si arriva dopo, un pezzo per volta, dai, un pezzettino per volta. Adesso entriamo nella parte un po' più seria del programma. Tu. Allora io che ci faccio? No, vabbè, ma tu partecipa, non ti preoccupare. Praticamente, dato che mi è venuta questa malattia di vedere questo sito che vi consiglio, musicmap.info, è un sito praticamente che affronta, tra virgolette, una mappa dei vari generi musicali. Noi dove siamo? No, non siamo da nessuna parte. Non Beh, è che, stasera non è... siamo un po' all'esterno. No, diciamo, giusto, è vero, questa sera ai limiti dell'universo, dai. Siamo sulla parte, diciamo, progressive rock, ecco, mettiamola così, qua. Anni 70. Ci muoviamo un po' sugli anni 70. E il genere è kraut rock, che ti dicevo prima, no? È un genere della musica nato in Germania. E è un era coniato praticamente come termine un po' dispregiativo dalla... Sì, sì, come noi diciamo. Cioè non è che proprio identificava uno stile di musica, ma degli artisti tedeschi che iniziavano a fare un po' di sperimentazioni musicali. Tutto qua. Beh, i tedeschi lasciamo stare con le sperimentazioni, che loro sono avanti con queste cose. Questa era brutta, lo so. Sappilo che questa era brutta. Tipo la pasta con la marmellata? La pasta con la marmellata, sì, va bene, va bene. Facciamo, diciamo così, va bene. C'è qualcuno intanto che fa dei brutti segni. Ma non è l'unica cosa che hanno sperimentato i tedeschi, eh? Sì, sì, no, lo so. Cioè, tipo, ma passare la marmellata, sì. Poi cos'è che avevo sentito? La pasta, la cucina. Cioè, il modo di cucinare la pasta dei tedeschi, no? Cioè, butti tutto dentro, anche il sugo, e fai bollire l'acqua. È giusto. Per loro è così che si pulivano. No, mica te l'ho detto. Vabbè, torniamo alla musica. Che cosa? Cioè, meglio la pasta col ketchup, mi sa, a sto punto. Ma anche quella è un'altra sperimentazione. Mentre a livello musicale avevamo comunque dei... Vabbè, i Kraftwerk erano i grandi... Come si possono dire? Sì, pionieri della musica. I pionieri della musica elettronica, e erano proprio inquadrati nel genere kraut rock. Sì, perché loro all'inizio erano un po' più rock. Cioè... rock sperimentale, poi hanno iniziato con le tastiere, sì. E via dicendo. Allora, quindi ascolteremo un po' di brani di questo stile, giusto per farvi capire un po' di che cosa si tratta. Dunque, pezzi anni 70. Sì, vari tipi. Sono anche abbastanza psichedelici, dopo sentirete. Insomma, immagino che usavano particolarità. Effetti particolari. Sì. E il primo che andiamo ad ascoltare è Ken con Pinch. Questo non lo conosco. Non lo conosci, ma sono molto particolari, non sono molto famosi. I didn't want that to be alone. answer how. You just know that provided we always should finish it all at the end of today's bout. You see the starlet and you got it now. You see the thing and you know it well. The fire is down and you keep on west. You have to show your figure to be your life and then you die. They'll know you're at the way you know. You send it home. Something on the like a something the world down there. They try the song. Alzandomi il genere, direi che si può parlare un po' come alle soglie del 2003, quando c'era la famosa house rock tipo degli Astro Boys con On the Road Again. Sì, sì. Tra l'altro a me piaceva molto quel pezzo lì, a Tony non tanto. C'era anche Prince, avevano fatto un remix di Prince. Anche gli NXS che avevano fatto un altro pezzo, ah, che adesso sì, non mi ricordo il nome, però era insomma spaccava. Ragazzo, mi sembri un nostro amico che non si può dire il nome. Un signor, no, ti prego, ecco, che dopo scoppia la radio. Ecco. No, visto che la sua conoscenza musicale. Vabbè. Ma oddio, diciamo che lui non era tanto più per quel genere lì, ero più io più puntato su quel genere. Sì, Fabio, volevo dire che la conoscenza di anche dell'etichetta discografica. Ah, io invece, sai, avevo sempre pensato invece i Rockets facessero parte di questo genere. Anche i Rockets? No, sì. In realtà i Rockets sono molto più dance. Rientrano, diciamo, un po' per il rotto della cuffia, ma non proprio. Sì, si potrebbe dire Cosmic, queste cose qua, fino agli anni 70 con Bardelli. Bardelli, sì, però. Perché poi On the Road Again è appunto un pezzo originale degli anni 70. Rock, sì, esatto. Country rock, diciamo, potrebbe essere. Che poi... No, perché country rock mi sembra che sia dei Clash, non mi ricordo male. No, Fabio. No. Beh, comunque, diciamo che dal genere questo del crowd rock sono nati una svalangata di altri generi, perché poi dopo si è nato l'industrial, per dirti anche i vari... I brani anche un po' forse bravo. Sì. È nata anche la musica elettronica. E a proposito di questo, infatti, volevo ascoltare un brano dei Kraftwerk. Non lo so, anche io dico sempre Kraftwerk. No, in realtà Kraftwerk. Tra l'altro hanno fatto anche un album quest'anno con una collezione di tutti i loro brani. Che sì, sono tantissimi, una cosa versione sterminata. Versione 3D, adesso non so come suonano in 3D, ma adesso è spettacolare. Intanto uno speaker ci sta abbandonando. Sembra di essere, sai, tipo a The Sims, no? Quando si sente male e saltano fuori i cuoricini quelli. Lasciamo la cura, dai. Come no? Mi guardi, ci hai giocato anche un sacco a The Sims. Ma non usciva il fumo? No, il fumo quando tipo puzzava, Allora no. Andiamo a ascoltare quindi Kraftwerk e vediamo un po' l'andamento, diciamo, elettronico della musica. Poi anno? Non me lo ricordo, comunque siamo negli anni 70, fine anni 70, credo. Prima degli anni 80. Questi? Sì. Kraftwerk con The Robots. Di dove sono? Tedeschia. Thank you. Dai, questa la conoscevi. Lui no. Lui no. Loro non glielo chiedo neanche perché secondo me non la conoscevano. Sì, l'ho già sentita. Ah, ok, va bene, va bene. Sto zitto. Sembra un po' l'electropop anche da qui nacque tutta la breakdance, il balli. Sì, sì, sì. Africa Bambaataa. Però questa è molto prima, fine anni 70 se non sbaglio. Diciamo Africa Bambaataa, non li conosci? Qua sotto cosa sta succedendo? E c'è sotto mi ha vibrato un orecchio. Quello non te lo so dire. Motivazioni varie. Sì, no, c'è un tono di voce abbastanza basso. Tony, sei stato tu? No, no, io c'ho Tony basso. Mi sa. Alziamo da i toni sopra allora. E da sotto. Direi alziamo i toni allora, ci sta, no? Portiamo 1,80 m. Continuiamo un po' il viaggio in questo stile musicale, va. Spostiamoci su un altro gruppo che si chiamano i Popol Vuh. Popol Vuh. Popol Vuh. Non so se si dice così, Deborah, si dice così? Popol Vuh. Tu sei tedesca. Non lo so. Tedesco? Popol Vuh. Sei il tedesco, Deborah? Più o meno, più o meno. Anche loro praticamente facendo parte comunque del crowd rock, però più per la parte diciamo elettronica. Infatti si diciamo si reputano i capostipiti di Brian Eno o altri. E sti cavoli. Sì, sì, sì. Però. I brani effettivamente, devo dirti la verità, sono veramente cosmici. Infatti adesso sentiremo quasi non hanno neanche una ritmica, non hanno nulla. E però sono quasi da mezzatonica in versione però anni 70. Anni 70. Perché poi anche tipo Brian Eno ha fatto un album per la musica solo si chiamava Airport sì? Security. No, quello è un programma su Real Time. Sì, no, perché ogni tanto dobbiamo smorzare. Sì, è vero. Se no, se no è... non era sull'8 sul 9. No, su tutte e due, Real Time. Quello che dipende da, che, da dove arriva l'aereo. Dei caccia. Dal gate 8 al gate 9. Anche dei caccia. Sì, da eppure deve essere una figata, Tony. Cosa? Dica, dica. I caccia. I caccia? Sì. In che senso? A me la caccia non piace. No! Però è che ti caccia? Ma che cazzo state dicendo tutti? I caccia, aerei caccia. Chi è che li caccia gli aerei? Appunto, chi è che li caccia? Li ma cacci il tu? Caccia e i caccia, giusto? Il plurale dovrebbe essere... Sono due cacciatori, non so. Boh. Infatti. Sono quelli che guidano gli aerei. Va bene, basta, chiudiamo la radio, chiudiamo la diretta, chiudiamo tutto. Cominciamo la fase delirio? No, ancora dobbiamo restare seri. Devo ascoltare quindi i Popol Vuh. Con Popol Vuh. Tears of Concrete. A me ricorre tanto una pubblicità. Questa? Dopo andiamo a parlare. giustamente Tony mi fa notare che il brano effettivamente non è degli anni 70. È un po' troppo moderno, diciamo. Sì, quasi reggae sembrava, non c'erano sì, certi sì, punti, sì, devo dire la verità. È del 95, però il gruppo sì, è il gruppo è krautrock, quindi rientrava dentro. Tears of Concrete. Mi hanno silenziato il microfono. No, ti abbiamo silenziato solo perché diciamo che eri accompagnata dalla tua amica tosse, quindi volevo un attimo amica, escluderla. Amica, insomma, eh. Vabbè, ormai mi accompagna anche nelle notti, cioè, aspetta. Non sei contento? No. Dormiamo in tre? No. No. Così era molto brutta, eh? No. Io lui la tosse. Beh, vabbè, saluto, scusami, dormiamo insieme. Sì, beh, certo. Beh, concerto, insomma. Sì, fino al mattino, fino più o meno alle 6 del mattino. Musica da camera. Tu sei la camera, musica però. Da camera. Anche lì c'è proprio un genere, eh? Si chiama sì. Musica concreta. C'è trombone e contrabbasso. Sì, ed è sono i primi esperimenti di musica elettronica, però questi sono gli anni 50, direi di evitarcela. Sì, quella parte lì l'ho saltata di genere. Passiamo direttamente, iniziamo dagli anni 70 e 90. Quark speciale speciale quark. Quindi continuiamo la nostra cavalcata, ormai ci mancano pochi brani di questo genere. Perché fai quella faccia? Magari. Perché? Andare a cavallo. Ah, fammi capire, non riuscivo a capire. Il prossimo brano è non lo so pronunciare. Allora, è scritto Neu, però in realtà sono andato a cercare. Neu. La pronuncia però, no, vedi, è Nick. Nick. Sembra scritto yeah? Nick. No, noi, boh. Noi. Noi, che sarebbe no. No, nine. No. Scusami, metti il traduttore Google e lo fai andare. No, no, cioè, nuovo, vuol dire nuovo. È nuovo, non nine. Scusi, sì, nine è no, giusto. È nuovo in che anno era nuovo? È negli anni 70, 71-75. È rimasto l'uovo adesso. È rimasto l'uovo? Le vecchie. La gallina? E loro sono invece i precursori dei Joy Division, penso un po'. Vengono considerati che allegria di... hai visto e anche degli Stereo Lab invece che dai tutto sommato non erano male, un po' meglio sì. Andiamo a ascoltare quindi un pezzettino dai non quanto dura? Beh 4 minuti no 50. Ma comunque voglio ascoltare questo un altro dei Kraftwerk allora per chiudere ci si il cerchio. Può fare anche la pausa puoi farti la pausa fai la pausa il brano è dei Noi abbiamo detto e punto esclamativo Wave Mother. Quindi la madre delle onde. O l'onda madre. O l'onda madre. Potrebbe essere. Thank you. qua stavano ragionando che probabilmente con un cantato sopra uscirebbe sei fuori male. Un pezzo pop, non dico dei giorni nostri, però dai. Magari metti anche un beat un po' più... Ci vorrebbe una drum almeno trip hop, ecco, mettiamola esatto, così. Esatto, concordo pienamente. Come vanno cosa... avanti questi qua, sì, sì, sì, sì, sì. Tra l'altro abbiamo un mistero poi sulla data in realtà del brano, perché sì, non si capisce. Abbiamo cercato... Dovrebbe essere 86, ma boh, non è dato saperlo. Lo cercheremo. Adesso faccio un'altra ricerca, poi dopo ti svelo il mistero in privato, dai, tanto... Intanto diamo una brutta notizia ai nostri ascoltatori, che ho appena rubato il posto a Cristina... quindi come... da domani non ci sarà più. Siamo qua, siamo come a Roma. Domani non ci sarà più perché domani non siamo in radio. Se vuoi restare in radio anche domani, per me va bene, non c'è problema. Sì, fino... metto la branda, dormo. Puoi restare in radio fino a venerdì prossimo. Poi dopo no, anche lunedì, dai, lunedì. Ma come si fa, tipo i cagnolini che mi mettono lì la no, attraverso quando... il passante la ciotola? No. Qua funziona che tutto sulle tue forze, quindi devi procacciarti il cibo. È un po' tipo l'isola dei famosi, esatto, però sì, la fanno qua dentro. Dei famosi. Sì, sì, sì. E dopo questa cavolate, dopo questa perla di saggezza, andiamo a ascoltare l'ultimo brano invece del krautrock. Yes. Mi stava iniziando a venire fame, devo dirti la verità. Sì, il krautrock. Sì, quello vuol dire krautrock. E l'ultimo brano che volevo farvi ascoltare invece è ancora dei Kraftwerk, perché ce ne sarebbe una discografia intera. Devo ma dire poi che... hanno pezzi abbastanza lunghi. No, ma va. Questa in realtà dura solo 2 minuti e 58, quindi abbiamo un'anomalia. E il brano si chiama Boing Boom Suck. Sì, è dedicata per proprio quello Shock. Che è successo ieri. Andiamo ad ascoltarcelo. Boing, boom, chuck. Boing, boom, chuck. Boing, boom, chuck. Boing, ping, boom, chuck. Ping, boing, ping, boom, chuck. Ping, boing, ping, boom, chuck. Ping. Boing, ping, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, chuck, chuck, chuck, chuck, boing, ping, boom, chuck, chuck, chuck, chuck, boing, ping, boom, chuck, chuck, chuck, chuck. Stop. Techno pop. Music non-stop. Techno pop. Boing, ping, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, ping, ping, boing, ping, boom, chuck, boing, ping, boom, chuck, boing. Vabbè, sembrava tipo il beatbox anni 70, dai, mettiamola così. Qui ci sta un bel rap, sì, vero? Esatto. Era il beatbox, era proprio l'antefatto del beatbox. Non possiamo, secondo me, è così, sì, lo so che a te non è piaciuto, immaginavo, però... No, sto pensando magari a che base si poteva mettere su anche... che c'è lo sfratto. Oddio, per lo sfratto esecutivo non ho pagato le bollette. Aiuto. È così. No, ma guarda, se non vuoi entrare, guarda, non c'è nessun problema. Che sia. No, adesso ritorno. Adesso più che ritorno. Le bollette, noleggio delle cuffie e noleggio della postazione mia personale. Esagerata. Fabio, tu pensi di avere un service, invece lo paghi te il service. Sì, infatti, mi sa che sono io qua che devo pagare tra un po'. Più sedia riscaldata già. Quindi... Quante lo fanno il service? Meglio il service che un'altra cosa. Diciamo che adesso si chiama così. Ultimamente si chiama così. Beh, un mazzo tanto si poteva dire. No? Ecco. Non per forza quella cosa lì, Tony. Vabbè, chiudiamo la parentesi Krautrock. Che sta venendo fame, no? Te non viene fame? No, abbastanza. E apriamo invece la parentesi mezzatonica. Ne apro io una parentesi. Vai con la parentesi. Chiudiamo, metti la canzone che devo riprendere la mia postazione. Adesso parliamo del brano proposto da Tony, che chiude un po' il cerchio tedesco. Un brano che piacerà moltissimo a qualcuno che ci sta ascoltando. Sì, perché è un fan. Sì, è un fan. Molto, gli è piaciuto molto. Ha anche visto il film, me l'ha anche fatto vedere. Ah, chi è che ci sta ascoltando? Che... Ma il brano è... Vabbè, vai. Faglielo presentare a lui. Beh, l'artista è il DJ tedesco Paul Kalkbrenner. Beh, lui è famoso, che io non ho mai visto il film Berlin Calling. Il film è bello. Sì, io penso che non l'ho mai visto, dovevi vederlo ancora. È bello perché parla un po'... Sì, non ho capito se è la sua storia biografica o... Più o meno. Però se fosse così è tosta. Perché ci sono dei passaggi abbastanza... Non ti voglio spoilerare nulla, ma ti dico che... Sì, ho visto qualche cosa così, un po' melodrammatico. Però è stato bravo a fare anche la colonna sonora, che è passata la storia. Sì. Soprattutto. Beh, ma lui in Italia verrà... Adesso non mi ricordo se a giugno o luglio. E fa sempre il tutto esaurito. Ma in Italia è molto amato. Sì. Poi tanti dicono che è sopravvalutato. Perché lui poi adesso è passato dalla B-Pitch Control, che è l'etichetta è tipica della techno, alla Sony Music, dunque è passato alla Major, già da un album 2 mi sembra. Però... E infatti la canzone che sentiremo dopo viene estratta dal suo disco del 2015, che si intitola Seven, adesso non so se è il settimo album, quello che è, che poi appunto ha delle sonorità abbastanza techno, ma ci trovi non anche troppo eccessive. Molti pezzi per mezzatonica. Direi che non sai, lui è un po' strano. Quindi non hai scelto il classicone di Paul Kalkbrenner, ma un brano più ricercato. No, perché anche poi è cantata da suo fratello. Sì. Che anche lui Fritz. E lui ha fatto parecchi DJ set che ascolto molto volentieri. Fritz? Sì. Lui è più like DJ. Diciamo è più Fritz. È frizzante, è vero. Visto che bella roba. Beh, allora ho scelto un pezzo che si intitola Bright Roller. Ok. È l'ultima traccia del disco 7. Andiamo ad ascoltarcelo. Paul Kalkbrenner. Thank you. Vai. Stavolta la cuffia te la sei presa tu, eh. Porca una miseria, volta mi sono preso testa. La cuffia in faccia. Sì, ma anch'io stasera sto ancora litigando, Con le cuffie? Sì, sì. Adesso avrò l'occhio, però non ti è venuto l'occhio nero, dai. Scusa. Io ho ripreso possesso. Cos'è che dici? L'unica che ha messo la cuffia giusta sono solo io? Che te devo dire? Guarda che devi darmi ancora il noleggio, Io la disinfetterei, sì, passa fra 2 anni. Vabbè, senza cuffie stasera. Il buon Gollum, cioè, dice: ascolta, e tu hai permesso che qualcuno prendesse il mio posto? E ma che non sono solo qua io, cioè, scusa. Stasera poi qui è casa, il proprietario di casa è un altro. Chi è? Scusa. Chi è? Che hai inventato il programma? Sono mie. Infatti, sì, magari non è padrone a casa sua, ma almeno qua. Infatti, io ho detto va bene, finché non torno va bene. Quindi... ma io sono tornata, era ancora qua. Dai. Scherzo, dai. Comunque, chiudendo il discorso della mezza tonica, il pezzo era bello, dai. Dai, da tramonto a Berlino, dai. Era bello, mi è piaciuto anche a me. Poi ricorda un po' anche quello che ho messo prima, un po' quello di Eric Pride. Esatto. Sì, giusto. Si allaccia molto a quello. Cioè, no, c'è una... non so, c'è stato un po' di trambusto. Che è successo? E quindi adesso continuiamo un po' con un po' di notizie musicali dal mondo. Hai visto? Ci vorrebbe lo stacchetto tipo... No, ci vorrebbe, sai cosa? Tipo quello del telegiornale. Sì. Una cosa del genere. Com'è che fa? Non lo so, non lo so. Bravo, bravissimo. TG1. TG1. No, in realtà poi dopo, il pezzo che andiamo a ascoltare dopo è un pezzo che abbiamo ascoltato un centinaio di volte. Però visto che c'era una notizia... No! Ma che hanno fatto anche dei remix. Te li porto io. Non me ne piace nemmeno uno. Davvero? Non me ne piace nemmeno uno. A te ti piace... Beh, va bene. Oh, non lo so. No, va bene. Sempre meglio che un bootleg mashup come ho avuto a dire con qualcuno. Allora, praticamente in Europa hanno stilato una classifica dei brani migliori dell'inizio del 2018 e rientrano un paio di canzoni che andremo ad ascoltare. Una di queste è proprio quella dei Portugal The Man con Fillet Steel. È ancora nei primi posti in Inghilterra. Nei primi posti in Inghilterra, sì. E in Europa sta andando anche molto forte. È uscita l'anno scorso. Sì, ormai da un po' che c'è, però... Sì. E poi dopo ci sarà un altro brano, però lo andiamo ad ascoltare più avanti. Okay. Non so se hai buttato l'occhio, giusto per farti un po' di spoiler solo. Sempre quei pezzi che mi piace suonare. È molto bello, è un brano molto molto bello. Infatti me lo sono tenuto per dopo. Andiamo ad ascoltare quindi Portugal The Man con Fillet Steel. Come se non l'avessimo mai ascoltata mai proprio. Una canzone nuova. Sentirlo abbastanza sarebbe la traduzione. My hands on myself. Pick up dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl, is in me. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. I've been feeling it since 1966, man. Might be over now, but I feel it still. Ooh, I'm a rebel just for kicks, man. Let me kick it like it's 1986, man. I'll be over now, but I feel it still. Got another mouth to feed. Leave it with the babies till the mama call the grave digger. Gone with the falling leaves. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. I've been feeling it since 1966 now. Living goodbye to my hopes and dreams. Stop flipping for my energy. ricorda un po' la silent disco qua, perché uno balla una cosa, quell'altro balla l'altra. Sì. Perché noi stavamo ballando un'altra canzone nel frattempo. Beh, sì, è vero. Sì, dai, il ballo del serpente te lo potevi evitare, però è su un brano come quello che è andato in onda. Ma ci stava bene, ma che la stava ma cantando. Io non è che tu devi spoilerare quello che stiamo facendo, ecco, noi in privato. Ma guarda, io lo spoiler di solito lo metto sulla macchina. Ma anche di serie proprio, cioè anche quello, di serie. Lo spoiler di quello serie. Che sei, tipo, sei lui è, Taselica, lui è candidato al lunedì sera. No, ma aiutami, ti prego. Cioè, lui è qua candidato c'è. Lunedì sera. E l'Oscar di Radio Lupo va a Gollum. Il mio tesoro. E tienitelo. Io non me lo porto no, a casa. Sta... Ma che non sono che mica un gadget portatile che mi porti a casa, eh. Sono mica un portachiavi. Beh. Quindi c'è il pop gadget, hai detto? Tiri... pop gadget collo. Ecco. Vabbè, continuiamo con un po' di notizie che avevo recuperato un po' dal web. Notizie collegate un po' al mondo di musica elettronica, ma non solo, dai. Infatti il prossimo brano è un brano degli Arctic Monkeys che tu dici, va, che cazzo, ci azzeccano qua. Però... Da un po' di tempo che... No, ci stanno. Però la notizia che li riguarda è che parteciperanno a un festival enorme. Il festival, diciamo, dell'anno. Sì. Perché è Lollapalooza. Ah, sì, penso anche nel Coachella. Sono i due festival, sì, diciamo... in America, no? Lollapalooza? Sì. Lollapalooza è a Chicago. Terra a Chicago. Anch'io. Sì. È Lollapalooza che poi era itinerante, se non sbaglio. E itinerante quest'anno si tenerà a Chicago. Okay. E parteciperanno veramente tantissime celebrità, mettiamola così. Tra vabbè, gli Arctic Monkeys. Poi, che tra l'altro saranno anche in Italia a breve. Sì? Sì. Dove? Non mi ricordo di aver visto in qualche festival anche qua in Italia, un po' più piccolino però. Invece in questo festival ci saranno anche Bruno Mars, ci sarà... Franz Ferdinand, i Wumbaz, caspita, potremmo passare qualche brano? I Wumbaz. Adesso vedo se recuperiamo qualcosa in archivio, perché secondo me ci sta proprio bene con il nostro programma. Invece il brano che andiamo a ascoltare è degli Arctic Monkeys, Sì, è difficile da dire, non è che è molto facile. Prova a dirlo veloce, vediamo. Arctic Monkeys. Mica. Chiudiamo tutto perché sentiamo. Io me ne vado. Sì, no, ovviamente è stato bravissimo. Il brano è Do I Wanna Know. Fai io dire a lei che è meglio. Fai io dire, bravo, per piacere. Io non ci leggo però. Do I Wanna Know. L'ho detto così io. Che ci ho detto? Il tuo è un po' di più... chi? Arctic Monkey. Ha detto veloce così non si capisce niente. Tradotto le scimmie artiche. No, però, come dire, il PC fa le bizze, vabbè, niente, quindi... Scusa, vediamo se il PC è andato a Ibiza? Quando? Fa le bizze. Vabbè, allora mettiamo anche i The Wombats, dai, che visto loro... Dov'è che le sputta le bizze? Non te lo posso dire. Dal CD, dal lettore CD, praticamente, sai, il lettore CD... C'era qualcuno che pensava. Piace la pizza. Qualcuno pensava che fosse il portatazza. Chiaro. Questo era un aneddoto di quando lavoravo ancora in informatica. Pensi. Andiamo ad ascoltare allora i Wumbaz con Backfire at Disco. Questo è un pezzone. Un altro pezzo. Everything was going perfectly until it backfired. Vai, un, due, tre. E vai che siamo in villaggio col cocome rotondo tondo. Che diamine. No, prima c'era il pezzettino del mio codin. Un pezzettino del mio codin. No, mi fa ridere le due librerie musicali dei coniugi. Allora, Domenico, ciao. Una bella libreria musicale di varia, tutto rispetto. Varia. Perché io no? Anche la mia è varia. Sì, perché sì, è variata la tua. Però. È variata, sì. Questa è stata bella. Questa mi ha anticipato. Cazzo, Tony, wow. Però mi sta iniziando a ridere come lui. Chi? Io! Lo so, è contagioso. No, così no, dai, va bene, no, va bene tutto, però. C'è qualcun altro qui di fianco a me che balla, balla, sì. Sì, vabbè. Che ride come un altro nostro amico che hai appena conosciuto. A pezzi. Risata a tocchi. Dovremmo fare una puntata sulla risata. È vero. La risata a tocchi. Dovremmo invitare varie persone con vari stili di risata diversa. I Simpson? Basterebbe lui. Abbiamo capito che basta. Qui abbiamo un villaggio turistico in persona. Infatti dietro ci sono gli MCA che ballano. Bisogna stare attenti così però. Infatti tra un po' metteremo i Village People. Riprendiamo un po' di notizie. Intanto vedo la Cristina sempre più allibita. Non ha tutti i torti però, eh. Riprendiamo un po' dicevo prima, anticipavo. Non per la mia musica sicuramente. Beh, oddio, parliamone. Certo, parliamone, ma anche no. Cioè, no, no, perché no? Perché no? Uno deve spaziare a 365 gradi. Ma qui... Cioè, non è che deve rimanere chiuso nel suo mondo. Comunque è 360. 365 sono i giorni. Vabbè, ho sbagliato. Ma spazi... Allora, venerdì sera non mi rompete i coglioni. Ma più che spaziare direi che spazzaturare. Come dice il buon Ligabue, venerdì non mi rompete i coglioni, quindi... Questa è la tagli... Però in una parte di Ligabue stavano cercando di farlo anche fuori, eh. Anche il rotto muro del suono in una canzone. Occhio perché sei a rischio. Sì. Anche il muro del suono ha rotto in una canzone. Vabbè, Tony, volevo invece dirti, parliamo di cose che serie. Si parla della discografia di Ligabue. No, no, facciamo l'ultimo intervento serio, poi dopo ci sarà il degenero. Ah, con già la World Degenero Chart e tutto il degenero che c'è solitamente. E stavamo parlando della classifica dei brani. Vai, dimmi. Non la chiameremo più, chiamiamo super classifica, ce l'ho passata. Telegatto. Sì, telegattone. Tornerà il telegatto, non so chi. Abbiamo anche il telegattone. Sì, ma questo, questo è un gatto morto però stirato dalla maglia. anche strizzato. No, il gatto dell'esorcista era. Figurati. Comunque ritorniamo al discorso, stavano dicendo che discorso che stavano dicendo delle canzoni migliori del 2018 secondo questa classifica europea è uno dei 2018? Brani 2018 dopo tre mesi già fanno una classifica del genere. Ma sì, no, ma ci sono dell'inizio anno, ci sono un po', diciamo, le classifiche si aggiornano spesso. Sì, però non mi so, cioè, ho visto che hanno la classifica di fine anno. No, ma c'è anche nel corso dell'anno ci sono varie classifiche, vari periodi dell'anno. Ok. E il prossimo brano invece è The Rudimental, che avevamo già ascoltato qualche pezzo molto più conosciuto tempo fa. E questo invece è il brano These Days, l'ultimo pezzo che hanno fatto. Sì, ma è un pezzo che ascolteremo molto, secondo me. Jess Glynne, Jesse. Jess Glynne, Macklemore e Dan Kaplan, che non questo so chi non sia. Lo conosco. Gli altri due, sì, dai. Macklemore mi è un tabarro di. È bravissimo, a me piace un casino. A me non piace molto. A me piace tantissimo. A me piace lei. Jess Glynne aveva fatto il brano Was the Tongue. E ne ha fatte. Was the Tongue, c'era. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke. I hope someday we'll sit down together and laugh with each other about these days all our troubles we'll lay to rest and we'll wish we could come back to these days these days it now. And I know it ain't pretty when the fire burns out. Calling me when I'm drunk, remind me of what I've done. And I know it ain't pretty when you're trying to move on. Reminiscing on those past days, I thought you didn't know where my last name, but that changed. And I traveled around the world, think where you living at now. I heard you moved to Austin, got an apartment and settled down. And every once in a while, I start texting, write a paragraph, but then I delete the message. Think about you like a pastime. I could cry you a river and get you baptized. Or I wasn't ready to act right. Used to always think I'd get you back right. They say that things fall apart. We were gonna move to Brooklyn, you were gonna study art. Love is just a tool to remind us who we are, and that we are not alone when we're walking in the dark. Bella. Buon Natale. Bella, buon Natale, buon Natale. Perché no? Dai, c'è la molto natalizia, vero? Molto allegra, che fa atmosfera. A me piace molto. Secondo me piace. È un pezzo che ascolteremo alla nausea, te lo dico già. Sì, vedrai. Lo so. Quindi l'abbiamo ascoltato adesso e poi non l'ascoltiamo più. Vai, ve lo diciamo già. Futuri, magari. Vedremo. Sì, a Natale. No, puoi? Perché mi mette allegria sta canzone. Ma puoi? Sì. A Natale? Sì, puoi. A Natale puoi. Sì. Okay. Vabbè, è iniziato ufficialmente il delirio. Sì, è vero, è vero. Siamo arrivati nella parte finale di Wolf Trips, quindi è iniziato il degenero barra il delirio. No. Infatti, ci sarebbe. Ti racconto a te che sei novizio, no, della trasmissione. Mm. Ci sarebbe adesso la Wolf Trips Chart, ma è stata soprannominata in Super Classifica Show. Proprio perché. O Top of the Flops, non lo so. Mm. Decidiamo. No. Super Delirio Show. Super Delirio Show. Super Delirio Show. Bella sta qua. Super Delirio Show. Hai visto? Super Tony, no, Tony Chart. Ogni tanto i nostri ospiti ci portano qualche Senti idea questa? Così. Super Tony Delivery sì, Chart. Sì, vabbè, poi cioè, ascolta. Senta, lei, tutte le cose che dico sempre a contestare, allora. Chi lo dice? Da quando sono qua che mi contesta sempre. Contesta, certo. Commento, dipende poi dopo con le cose che bisogna sempre, fare. Beh, sempre, ma guarda, perché bisogna preparare le persone sempre al peggio, mai al meglio. Ma anche io preparo sempre le persone al peggio, infatti. Guarda. Dopo magari, lì c'è una bottiglietta d'acqua, sì? Magari li mettiamo dentro un po' di cianuro, che ne dici? Sì, non doveva essere. Però dipende, perché sai, al peggio vai in montagna, poi... Guarda che io queste battute le facevo 20 anni fa, caro. Cioè, battute? Pensa se era una schiacciata. Cioè, iniziamo a lunedì e finiamo al venerdì, ma peggio. No, il problema sai cos'è? Che ci siamo... ride anche da solo, ci siamo trattenuti per un'ora e mezza le battute, quindi adesso stiamo sparando tutte una di seguito l'altra. No, ma lui fa le battute e ride solo lui da solo. Questo si chiama... Dovremmo fare anche il bordereau per le battute. Vabbè, iniziamo con la posizione numero 5, va, della classifica. Ok, i primi 5? I primi 5, sì. I primi 5, okay. Che poi dopo andiamo a casa, andiamo a mangiare, perché sai, si è fatta anche una certa. Io vado a mangiare, tu non so dove vai. Lo so, io vi seguo, dove volete andare andiamo. Posizione numero 5, posizione numero 5. Il brano di Yu-Gi-Oh, che ormai è in discesa, quindi penso Yu-Gi-Oh. Il brano è Something Like This. Tra l'altro saluto Filz che ci mette sempre like sulla classifica. Sì, salutiamo. Di dov'è? Oh. love, felt the cold under my skin. I've hunted down for nothing now. And why does it always have to end like this? Be Mr. Cold, but sensible, and I'll hold my tongue. Could it be another memory we've missed? If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I thought I knew what I wanted. What makes you so damn comfortable will only end in tears. Oh, and we got something like this. An empty cage to lock down everything you need. Three wishes won't free me at all. You got my tongue, still I hold on. Here's everything we bleed. If you feel nothing anymore, then walk away from this. And I thought I'd che decidiamo dove andare a mangiare, ma vi dico che bisogna stare schisci così, no. Giusto per un bel salto da McDonald's, no saltiamolo pure, e infatti saltiamolo pure, sì infatti lo facciamo, ecco. Il salto nel, ma senso che lo superiamo, nel senso che lo saltiamo proprio. bravissimo e mi sento un po' come il pezzo dopo, un po' a parte. Oh signor. E mi sento anche un po' malone, ecco, vediamola così. Sì. Sta venendo un po' il con malone. Quello che hai di fianco, sì. Vabbè, dai, il pezzo ci numero. Ci vuole una medicina. Ecco. Il pezzo alla posizione numero 4, anch'esso in discesa, è di Post Malone con I Feel Apart di Medicine Remix. L'abbiamo detta tutta. Questa è una ricetta medica, questa. Sì. Tu hai deciso dove andare a mangiare? No. Se no possiamo... No, vabbè, ma quello che abbiamo fatto settimana scorsa, no, dai. Ancora no. Dai, diventiamo non ripetitivi. Non poi, si ripetono no. Due volte le cose. C'era una volta cose. Una buonissima piadineria, purtroppo ha chiuso. Mm. Mannaggia. La piadineria era Madonna in campagna, non era male. She cut too deep, now she left me scarred. Now there's so many thoughts going through my brain, and now I'm taking these shots like it's moving pain. Sold my soul, devil in the form of a whore. devil in the form of a whore. You said it. Allora, 60 minuti. Si crea il gelo così. Vai, vai. Sì, veramente. Passano i pinguini. Allora, no, stai zitto un attimo e basta. Aspetta che lo silenzio. Basta, okay. Insomma. Silenziato. Io sono adesso in un momento non serio, serissimo, perché volevo fare gli auguri al nostro piccolo radioascoltatore che segue sempre il nostro programma, il nostro Chicco, che oggi fa il suo secondo compleanno, e gli volevo fare tanti auguri, amore. Dai, Chicco! Ma che non ti risponde. Cioè, no, ti lo so. No, dopo... No, magari tranquillo. Gli manda il messaggio. Di messaggio, sì, sì, sì, no, il messaggio lo sì, manda sì, sicuro. Sì, amore, lui. Messaggio vocale. Intanto saluto anche Ale. Eh beh, giustamente, dai. Sia Ale che Chicco. Al Chicco buon compleanno, e a Ale tanti bacini, anche al Chicco tanti bacini. Però comunque, vabbè. Detto questo... Te l'ho detto che inizia il degenero l'ultima mezz'ora, cioè succede di vabbè, tutto. Vabbè, ascolta, ascolta, no, i miei due amori di 2-3 anni, cioè no, lasciameli perché Domenico è il mio momento. I bimbi sì, Domenico c'è. No, ma vabbè, io vabbè, va bene, nel senso, ah, così, non è il discorso. Tanto, cioè, ripeto, è l'ultima mezz'ora, quindi non so, tu vuoi salutare qualcuno? Ma nessuno è passato. Ok, a posto, tanto non ti faccio salutare. Cioè, non c'è qualcuno in particolare che volessi salutare? No. Che ok, va bene, ok, che ti ascolta, che non ha visto la foto compromettente. Meno male, sì. Ciao Sabri. Ecco. Ah, ecco, vedi. Vabbè. Saliamo alla posizione numero 3, Tony. Sì, ma tu intanto scegli dove andare a mangiare. Che qua adesso... la fame pregna. Pregna tanto, non lo so. No, più che altro sai perché non volevo salutare? Perché in questo momento sicuramente si starà vergognando di me. Quindi. Ma anche noi. Però noi dal vivo. Sì, veramente. Cioè, Tony, fai qualcosa allora... perché. Fabio live. Allora. Fabio, dove cazzarola è andato a finire? Eccolo qua. No. Si è trasformato, c'è stata una mutation. Vabbè, ma... andiamo a ascoltare quindi la posizione numero 3 con Black Wave Swanging. Swanging. Tra l'altro un pezzo che se non erro, sì, è in salita da un paio di settimane nella classifica, non è da tanto. Ho capito che ti piace. Ma piace. La copertina tra l'altro è bellissima, dopo dagli un occhio perché sembra un po' ripresa da Daft Punk. Allora, ma è uno solo o sono in due? Sono in due. Dimmi. Tagliate che chiamiamo il posto. Vediamo se hanno posto per mangiare. Ok, dai, informati. Per farci mangiare, informati. Abbiamo fame. Who got the keys to this Bimmer? Nigga, ain't nobody got a Bimmer. Got a Bimmer, tell Zimmer, come and get you, hit you. Trust me, ain't no need to worry. Imagination from the dome, made me get it. Just hit it and feel it. Now we got a whip. I'm in like a tank, got a tank fully filled. You with the residue that got you going. 0 to 100, nigga, real quick, real shit. Oh man, I swear, even got a rims. Up with the signs like a pimp. And if I come to think of it, I even had a mistress. Bowing at a drink that I drank while I sang. With the boys, every hundreds and the Royce, steady standing to this joint, ay. Got me drifting in your lane, come to with the crew, you better stay out the way. Cause I heard this the way around town, that J, me, killing goofy niggas really quick right now. Ego tripping in the mission, my decision on this mission, I'm a sin. Asking if I do it again, I love it from the start to the end. Till I got it all figured out, it in a mouth, just gotta make it drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click, sip, sip, sip, sip. Swangin', tweaking in the whip, swangin', cheat you with the trick. Drip, drip, drip, drip. City on the map and the home click, sip, sip, sip, sip. Swangin', tweaking in the whip, swangin', cheat you with the trick. Gotta let me do my thing, thing. Just gotta let me do my thing, thing. let me do my thing. Hold up. Labels pushing us like right. Call it dope music. They be asking us why. Cause we on that whole new shit. I'm not a dealer, but I move units. On the run, I ain't got a gun, but I shoot movies. Just for fun. Yo, we be bumping this shit in the wheel. Motherfucker, we be cruising. Y'all might be deaf, man, if you don't think it's a deaf jam. Rick Rubin. Solving the game like I'm Rubik. Reinvented like a cubist. I feel like Pablo, like a pyro. We ain't coolin'. Up in space like I'm Kubrick. Overseas like Odyssey. It's through the Chris, how we move, bitch. Get out the way. Swore so hard, now we swinging in space. Get out the way. Swore so hard, now we swinging in space. Drip, drip, drip, drip. City on the map in the honk neck. Sam, sam, sam, sam. Twangin', drinking in the whip. Twangin', cheat you with the trick. Drip, drip, drip, drip. City on the map in the honk neck. Sam, sam, sam, sam. Twangin', drinking in the whip. Twangin', cheat you with the trick. Gotta let me do my thing, thing. Just gotta let me do my yeah, thing. Yeah. Dato yeah. Yeah, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo prenotato. Vai. Yeah, bella lì. Vabbè, dopo mi dite dove andiamo, dai. Alla grande. Allora, lo diciamo dopo. So, sì, eh no, no, no, no, sono a meno che non ci vogliono pagare. Cioè, non ci siamo pagalate una rispa. Cos'è che stai dicendo? Non lo so, magari ci forniscono un pasto gratis. Facciamo pubblicità. Però. No, sai invece, se qualcuno dei nostri ascoltatori volesse venire a mangiare con noi, ci può scrivere al 338-222-8983. E noi saremo lieti di ospitarvi nel nostro dopo radio. Mm. Sì, ma detto così sembra che dobbiamo pagare noi, eh. No, sì, no, ma ce lo offrono. Esatto, con l'unica differenza che pagano loro per noi. MC? Ecco, ecco come non far venire mai. Sempre MC? MC, lui è un MC, un rapper. YMC. Sì, no, no, no, io lo dico proprio. Io ho paura se che non volesse... sapevamo chiudere, ma qua... Vabbè. Niente, diciamo ma che dimmi un po', canzoni... parliamo un po' degli altri programmi. Dimmi un po', no, parliamo un po' tu, degli altri programmi. Quel pezzettino del mio codin. No, diciamo parliamo di altri programmi. Tu fai un bel programma a lunedì, come sta procedendo? Ma mi dicevo abbastanza bene. C'è qualcuno che... vabbè, no, va bene, va bene. A parte che non riesco ancora a fare il podcast. Ciao Mari, ma diciamo che è divertente. Divertente. Purtroppo... Anche il programma prima, no? E quell'altri, diciamo che poi se la prendono un po' comoda perché non capire cosa fanno ancora, ecco. Vabbè, dai, sono i tempi radiofonici, dai. Meno male che non sono in TV. Infatti. No, comunque va bene. Invece volevo chiedere dopo alla Chris se ci dà dei ragguagli sul meteo, visto che avevamo questa bellissima abitudine tempo fa, ma poi siamo andati perdendola. Sì, però che palle, allora, hanno rotto meteo... proprio le scatole. Cielo in gran parte nuvoloso, minima di 3, massima di 11, vento debole. Perché? Va bene. Cosa ma... volevi tu? La neve, cosa volevi? Non so. Vuole che piove dentro il pub, lo so. Ah, ma quella è la temperatura del pub? Eh sì, perché sai, si è irlandese, allora no, ci vuole tutta l'atmosfera. Adesso le temperature si stanno alzando e questa cosa. E ricordatevi che da domani si dormirà un'ora in meno, eh? Sì, è vero, c'è cambio orario. Giusto. E tra pochi mesi dovremo chiudere la radio anche. Ricordiamoci anche questo piccolo particolare perché ci scioglieremo. Devi sapere che qua dentro è come, non lo so, è come stare all'esterno, cioè d'inverno fa freddissimo, è come se stessi all'esterno. No, fa più caldo qua dentro. No, allora, d'inverno fa freddissimo e di estate fa ancora più caldo. Esatto. Quindi, ma voi quando vi siete sposati era lo stesso matrimonio, sì? Cioè, sì, okay, sì, sì. Ok. In teoria, così dicono, sì. Così dicono. Ci sono i testimoni. Ovvio. C'erano un po' di poi persone. Mi dicono la notizia che ho sentito oggi un'altra radio che parla proprio delle bomboniere moderne. Signore. Praticamente... c'è un cellulare? No, è un modo diverso di fare la bomboniera. Cioè, è un pacchetto per ripigliarsi dal giorno dopo del banchetto del matrimonio. Tutte queste cose per recuperare della sbornia. Cioè, non so... after party, praticamente. No, ti danno, non so, le pastiglie per mal di testa, il colluttorio. È proprio questa è una nuova moda che sta arrivando adesso. E la pastiglia per dimenticarsi della cazzata che hai fatto? Sì. Quello sì. Ormai si chiamava quello. Aspetta, non la medicina, la droga quella. Il Rufus. Rufus. Quella del film. Sì. La notte da leoni. Ah, è vero, sì. Io l'unico Rufus che mi ricordo era nel film Nightmare on Elm Street, che praticamente c'era il cane che si chiamava Rufus. No. Riguardati, allora, compiti a casa, riguardare tutti e tre i film di Una notte da leoni. Ma Rufus è anche un produttore musicale, DJ. Rufus è un produttore musicale, come magari ha preso spirituali. Vabbè, andiamo ad ascoltare il prossimo brano, che è di Flume con Sleepless. Sleepless, che chissà cosa vorrà senza mai dire. Sonno. Senza sonno. Un po' come noi questa sera, no? Perché vedi, noi siamo famless stasera. No? Mamma mia, che fame, cazzo. Fame fuel. Pieni di fame. Ok, dopo questa serie di strafalcioni inglesi andiamo ad ascoltarci il prossimo brano di Flume. Posizione remix? Numero 2. Remix giusto di Justice Slongling. Quella roba lì. Ormai ci siamo quasi alla fine per questa settimana. Eh sì, infatti siamo senza sonno, come dice la canzone. Sleepless. Senza dormire. Oppure potrebbe essere anche un'altra cosa. Però mangiare. Ma senza mutande. Ma dai. Può sarebbe con la I. Esatto. Dai, no. Era un'assonanza così. Qua finiamo sul porno? No. Presto. Ma sleepless potrebbe anche significare più semplicemente uno che soffre di insonnia anche. Però insonnia c'è in inglese. Insomnia. Sì, scusa. Insonnia magari è la malattia, ecco. Ah, ok. Beh, uno che non dorme sicuramente è anche insonnia quella. Ma in inglese in realtà tante parole possono essere tradotte in 1500 modi. La parola esatta è insonne. Insonne. Ecco, quindi era... Quindi c'aveva ragione, ragione Gollum. E infatti lo vedi e non dormi più. Tanto domani non mi vedrete più perché qualcuno mi ammazzerà. Ma ho perché? Già avuto un messaggio in diretto. Sì. Sì. Un'istantanea della foto che ancora deve arrivare. Quella magari se non arriva anche no. Perché anche già ho rischiato abbastanza la vita stasera. No, dobbiamo rompere le balle quel nostro amico Alevi e il suo fotografo per la foto che... Il giro e del... allora stasera andiamo a rompergli le scatole. Ancora? No, ma guarda, no. Ho saputo che quella foto è andata rimossa, bruciata. Cancellata. Sì, l'ha bruciata. Si è bruciata. Sì, è bruciata. Ah, vabbè, ma... salutiamo le B, però mi sa che stasera... mi sa che non ci siete là sotto. Non prendono neanche i cellulari. Vai che stai rischiando anche te che questa persona la conosci. Che cosa? Ai ai. Ai ai. No. Mica ho fatto io la foto con quella ragazza. Sì. E tra l'altro era anche una bella ragazza. Allora. Sì. C'aveva delle calzamaglie con i fiocchetti che mi piacevano un sacco. Beh, sì. Boh. Vabbè, io noto i particolari, quindi... Ma io ho visto che aveva la minigonna, ma... No, sì. Ma sinceramente, te, non è che era un granché. Con gli stivali. Per me no. Quella sopra, sì. Quella che l'altra barista, sì. Merita di più. Ma che qualcuno ti uccide stasera, non arrivi a domattina. Sì. Io sono uguale. E nel momento stiamo perdendo degli speaker. Dei pezzi. Io direi che andiamo a ascoltarci l'ultimo brano della classifica, poi vediamo se c'è spazio per un altro brano. Vediamo, magari riusciamo a mettere un altro brano, vediamo, non lo so. Ancora, al numero uno. No, al numero uno è Jacob Banks con Louis the Child. No, settimana scorsa, due settimane che è il numero uno. Sai in che colonna sonora fa parte? No, non lo so. Sei andato anche al cinema a vederlo. No, davvero? Sì. Che film cosa? È? Cosa? Ah, no, tu sei andata a vedere 50 sfumature di rosso. Sì. Questa canzone fa parte della colonna sonora di 50 sfumature di rosso. Allora andiamo ad ascoltarlo con Didi Bop. Didi Bop. Smoke won't make you feel at home. Yesterdays are made for letting go. Silver will never feel like gold. Chasing shadows will leave you in the cold. Oh, you should dance some more. Don't need nobody to take.

rocket ship and then we fly far away. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face, saying, wake up, you need to make money. Yeah. Viaggi del lupo. Che poi nella sigla, cioè, non mi ricordo che voce abbia utilizzato, no? Vabbè, a parte la mia che si sente. Poi c'è tipo Clap Your Ass, Clap Your Hands. Che cacchio di voce Clap Your Hands, sì. Clap Your Hands. Hands? Vabbè. Non so da dove l'abbia presa, devo dire la verità. H-A-N-D-S. Io proprio con l'inglese non, diciamo che vado a cozze. Non mastica l'inglese. No, non mastico. Lo sputo direttamente. Esatto. Oppure gli faccio il frullato alla sera. Semolino d'inglese. Esatto. Vabbè, comunque io tornerò, penso a... No, la zuppa inglese, è vero che c'è. La famosa zuppa inglese. Va bene, va bene. Intanto... Io lo uccido prima della stagione stasera. Ah beh, tanto ormai c'è la fila su chi mi vuole far fuori, quindi... Se volete anche voi mettervi in fila, scrivete un messaggio al programma. O ci trovate di a 822-8983 oppure sul Facebook. Oppure dopo Wolf ci Tricks. Trovate. Ah, potete sì. Farlo anche di persona. Tony voleva anche no, darvi non diciamo il suo numero cose. Di telefono. Chi mi ammazza prima no. Vince il premio. No, dai, evitiamo, dai. Sembra una cosa tipo Suicide Squad, una cosa del genere. E che lì ci sarebbe da tirare fuori qualche bella canzone della colonna sonora. Sì, sì, sì, sì, sì. Soprattutto l'attrice. Sì, ti piace? Sì. Assai. Però in versione cartoon. No, non così come concerto così. No, è vero. No, è tornato Pirate. No. Ok. Intanto che ci teniamo come base la canzone dei Pirate. Magari allontanalo un po' dal microfono. E niente, salutiamo perché siamo arrivati in fondo. Ormai sono le 10:01. Abbiamo sforato anche di un minuto. Sì, quindi se fossi il programma prima del tuo, tu mi avresti già cazziato. Ah, ci picchi, è vero. Hai visto? Non ci pensi, però, delle volte. Vabbè, però diciamo che oggi Wolfman Jack li vedo lati tanti. Però magari arriveranno dopo. O magari dipende da. Salutiamo comunque. Vabbè, salutiamoli. Ma è dopo che non li vediamo. Mi sa che settimana scorsa non c'erano. Non c'erano. Vabbè, come dire. Al massimo ognuno fa i programmi suoi. Trovate Sam sul negozio Cannabis Store. Oppure lo trovate sul treno. Sì, domani dovremmo andare a farcelo un giro. Va bene, andiamo. Un tiro? Un tiro? Vabbè, diciamo che è venuta l'ora di chiudere. Alla fune o alla pesca. La pesca mi piace un sacco. Salutiamo allora Fabio, non nostro Gollum. Un cacchio, però. Ciao a tutti. Ok, poi salutiamo Deborah. Ciao. Salutiamo Cree, che se la smettesse con la canzone del Pirate saremmo tutti più contenti. Ti consuma i giga comunque quelli video. No, tra poi esplode il telefono. Ti esplode il telefono, sì. Salutiamo Tony. Ciao ragazzi, buonanotte. E mi saluto io da solo. Okay. Ciao ragazzi, ciao. Ci sentiamo settimana prossima con l'intervista in Murmur Mori, sì. Che sarà difficile già da dire il nome. Settimana prossima abbiamo qua. Loro sono in quattro. Sì. Loro sono in quattro, però probabilmente verranno i due cantanti. Ah, a presentarci. Sì, sono in due. Solo in due. A presentarci il loro nuovo album. Quindi sentiremo un po' musica un po' particolare, ve lo dico già. Bella. Visto che noi non ci fossilizziamo su un solo genere, ascolteremo un po' di roba un po' particolare. Non è Fabio? Assolutamente sì. Ciao.